Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Oggi voglio darvi uno spunto di riflessione per l'anno nuovo, per la vostra felicità sessuale, coniugale, relazionale, sentimentale. Vorrei riproporvi una profonda e dolorosa inchiesta che abbiamo fatto sulle donne italiane, partendo da una ricerca riportata da The Guardian, che dice che molte donne sfiduciate, deluse dagli uomini, scelgono di rinunciare alla loro vita sessuale piuttosto che avere relazioni con quelli che chiamano i farlocchi stanchi. In Italia è nato un movimento a seguito di questa ricerca, è il Fuga, femmine urbane grandi astensioniste, alle quali noi abbiamo dato possibilità di esprimere la loro istanza. Prego, riflettete su quello che potrebbe accadere anche sotto il tetto di casa vostra. È meglio andare in bianco che darsi al farlocco. È meglio andare in bianco che darsi al farlocco. È meglio andare in bianco che darsi al farlocco. È meglio andare in bianco che darsi al farlocco. È meglio andare in bianco che darsi al farlocco. È meglio andare in bianco che darsi al farlocco. È meglio andare in bianco che darsi al farlocco stanco. È meglio andare in bianco che darsi al farlocco stanco. È dura vivere in provincia, però la difficoltà di trovare qualcuno, sia a scopo fidanzamento o altro, non credo che riguardi solo noi zitelle che viviamo in piccoli centri dove la fauna maschile che è in circolazione è sempre la stessa. Ho girato parecchio, però stavo leggendo in questi giorni un articolo del Guardian, e se anche questo giornale si è scomodato su un problema che è anche metropolitano, che riguarda città dove ci sono grandi ricambi nel mercato dei single, significa che la situazione erotico-sentimentale per le donne di oggi è un fallimento, non è più un approdo nella vita su cui investire. Faccio immediatamente due premesse. La signora, avete già sentito, è una rappresentante del Fuga, del nuovo movimento delle femmine urbane grandi astensioniste. L'avete già sentita al treno va, perché l'ho incontrata in treno. Ve la ripropongo oggi, perché oggi il tema di approfondimento sociale che voglio proporre a Melog è proprio quello che nasce da un articolo del Guardian, che questa signora, che si fa portavoce di un movimento sembrava sotto traccia, ma ora abbastanza evidente anche nel nostro paese, vuole lanciare quello che è il messaggio triste per noi maschi, ma ahimè oggettivamente reale: è meglio andare in bianco che darsi al farlocco stanco. Seconda premessa che faccio: non mi tiro fuori io, non punto il dito contro gli altri uomini, io probabilmente sono il primo dei farlocchi stanchi, quindi non è che voglio fare una trasmissione ergendomi come ultimo rappresentante di una dinastia di maschi alfa, no, io sono un farlocco stanco. Detto questo, quindi fugo ogni volontà da parte del pubblico dire: ma tu chi sei? Io sono un farlocco stanco. Però questa mattina vi parlo di un movimento di cui ancora nessuno ha mai parlato in maniera così esplicita, di cui le portavoci non si erano mai in questa maniera esposte e messe in primo piano a farsi, diciamo, rappresentanti di un'istanza dolorosa, profonda: l'impossibilità per un certo segmento di donne di incontrare maschi attivi, maschi efficienti. Trovano soltanto farlocchi stanchi, e quindi hanno deciso che è meglio andare in bianco, meglio rimanere caste, meglio dedicarsi a altre cose, andare a fare lunghe passeggiate, trekking tra i boschi, avventure nel mondo, occuparsi di fare dei begli incontri in palestra con le colleghe, con le amiche. Insomma, meglio andare in bianco che darsi al farlocco stanco. Quante voi siete del Fuga? Oggi il Fuga avrà la sua massima possibilità di espressione. È meglio andare in bianco che darsi al farlocco stanco. È meglio andare in bianco che darsi al farlocco stanco. È meglio andare in bianco che darsi al farlocco stanco. È meglio andare in bianco che darsi al farlocco stanco. Scelta che è quella di restare sole e di evitare rapporti occasionali, o anche di non accontentarsi della mediocrità che già può essere evidenziata nello scambio di poche chat o nei discorsi del primo appuntamento. Nei piccoli centri è chiaro che c'è lo sposato traditore seriale che ci prova con tutte, ma poi c'è anche il cinquantenne libero professionista, azzimato, separato con prole, che però è già stato fidanzato di tutte le tue amiche. E poi c'è anche, non so, c'è l'eterno single, quello che svolge un'utile professione sociale, che è quella di soddisfare a turno le malmuntè. Dalle nostre parti sono quelle donne sposate o fidanzate che hanno un inutile compagno. come stiamo facendovi ascoltare, il problema non è certo lieve. È un problema che deve preoccupare tutti, non soltanto le interessate per genere e per fascia d'età, che sono donne libere, autonome, di un'età media che può andare, ahimè, tristemente dai 35 fino anche ai 55 e anche oltre, perché le donne oggi si mantengono fresche, vitali, attive, intelligenti, curiose per un tempo molto più esteso degli uomini. Questa fascia di donne, prima in maniera impercettibile, soltanto come segnali che avvertivano, unicamente le persone più sensibili, hanno cominciato ad essere selettive nei confronti dei maschi, che non erano solamente all'altezza della loro emancipazione, che finalmente si concretizza non in termini astratti, non in ideologie, ma in concreto comportamento. Le donne sono libere, tranquille, autonome, gestiscono la loro vita. Quelle che sono riuscite a tagliare anche i ponti con le madri assassine, con i padri eternamente censori, con tutte le storie d'amore precedenti che le vincolavano, divorziate, separate, single, quello che sono, si guardano intorno e qua finalmente adesso siamo come Buffalo Bill in una grande sterminata prateria con il suo Winchester e una mandria di bufali imbizzarriti pronti a darci l'assalto, noi pronti a prenderli al volo. Invece no, si guardano intorno e hanno soltanto farlocchi stanchi. E quindi il motto che ha coniato questo movimento post-femminista, nulla a che fare con le femministe, un movimento di reale e concreta autocoscienza femminile che si chiama FUGA, femmine urbane grandi astensioniste, è meglio andare in bianco che darsi al farlocco stanco. Ecco, quante di voi che mi stanno ascoltando si sentono di poter partecipare anche semplicemente con l'intenzione, con il desiderio o con la loro esperienza personale alla grande battaglia sociale del FUGA? Anche poi non è una battaglia, è semplicemente una denuncia, come stanno benissimo. Cosa fanno le donne iscritte al FUGA una volta che hanno saggiato tutto il farloccume maschile che hanno a disposizione? Sono stanche degli aperitivi, sono stanche delle chat notturne, e sono stanche degli appuntamenti, sono stanche delle passeggiate, sono stanche degli weekend che sembra chissà cosa debba accadere e poi non accade niente. Cosa fanno? Beh, oggi vorrei sentire la voce delle mie ascoltatrici che fortemente si sentono di aderire in PEC a questo movimento. 800 24 00 24. Proprio vero che è meglio andare in bianco che darsi al farlocco stanco? Quanti ne avete conosciuti, incontrati di farlocchi stanchi? Beh, questa è l'occasione per denunciarli. È vero che comunque vada, siamo fottute, sia che lo facciamo oppure no, perché a volte il maschio di una donna nuda non sa che farsene, non sa dove mettere le mani, quindi sarà anche un processo lungo da digerire per una donna, ma ci si arriva poi alla fine. La frustrazione che deriva dal sesso scadente è peggiore della sessualità. Io nei miei 42 anni ho avuto esperienze quando ne avevo 20, 30 e mi ricordo che invece era diverso. Quelli più vecchi ci sapevano fare meglio, ecco, diciamo quelli della mia età o persone che magari avevano già qualche anno più di me. Invece adesso su YouPorn e su questi altri canali chiaramente si trovano già tutto fatto, però forse non li aiuta. 800 24 00 24. È vero che è meglio andare in bianco e darsi al farlocco stanco? Esiste soltanto su piazza la disponibilità di farlocchi stanchi? Chi sono i farlocchi stanchi? Stanco è un termine lato, non è che è stanco perché non ha voglia di camminare o ha sempre sonno, è stanco perché sembra ormai la vita abbia già lui dato tutto, non ha nessun problema, ha alle spalle naturalmente una madre che gli provvede a tutti i suoi bisogni fisici, corporali, mentali, emozionali, o probabilmente sistemato, non ha nessun problema, ha soltanto tanto tempo libero, finito il suo brillante o non brillante lavoro, deve soltanto vestirsi, depilarsi le ciglia, uscire e inventarsi qualcosa da fare. Quando esce e inventa qualcosa da fare, qual è la parte che ha la femmina in questa sua invenzione quotidiana? Qui è il problema. Naturalmente mi stanno arrivando molti sms di uomini, sentono indignati per questa sorta di presa di posizione per le signore del FUGA, come se io fossi un traditore del genere maschile, ma mi piace mettere il dito nella piaga. Se esiste il problema della stanca farloccaggine, è giusto che le signore del FUGA abbiano la loro occasione di esprimersi. Nicoletta, buongiorno. Volevo solamente dire sinteticamente due concetti. Intanto che per 10 anni io sono stata in preda dei farlocchi stanchi. Adesso fortunatamente ho trovato un compagno ormai che non è stanco, che ha voglia di condividere con me. E qual è la differenza? Mi dice la differenza sostanziale fra il compagno e il farlocco stanco che ha frequentato per anni? Guardi, il farlocco stanco che ho frequentato per anni è quello che avete descritto voi, cioè che non hanno più voglia di mettersi in gioco, mentre le donne rimangono, oltre l'età di cui lei parlava, cioè i 55 anni e oltre, desiderose di mettersi in gioco e di vivere la propria vita. Ma mettersi in gioco vuol dire, no scusi, perché io sarò farlocco stanco, ma questa è una frase che aleggia. Mettere in gioco vuol dire uno che vi sposa, che si mette, che vive con voi, che si dà anima e corpo a voi. No, mettersi in gioco. Assolutamente no, assolutamente no, nessuno vuole più questo, nessuno vuole che più volete? Questo. Mettersi in gioco che vogliamo in questa maniera così bella. Ridere, sai, già mi preso. Sembra che lei sia un farlocco molto stanco. Ma però... il signore ho 60 anni, ormai ho dato, sono stanchissimo. Anche io ne ho 53, quindi vabbè, vabbè, lei ancora magari qualcosa trova, io ormai. 800240024, a tra un istante. Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vi presenta. Melog. Cronache meridiane. È meglio andare in bianco che darsi al farlocco stanco. È meglio andare in bianco che darsi al farlocco stanco. È meglio andare in bianco che darsi al farlocco stanco. È meglio andare in bianco che darsi al farlocco stanco. Categoria, che è quella dei ragazzi di 20 anni che bevendo troppo lo usano poi per rimediare a delle defiance che possono avere, ma invece c'è questa categoria di 30-40 anni che invece non vanno nemmeno a cercare questo aiuto, cioè se ne fregano, non vanno a ricorrere a queste cose qua, neanche a un supporto psicologico eventualmente, non vanno dall'andrologo, se ne fregano. Non siamo riusciti ad andare oltre alla risata o alla pena della visione del nulla, cioè non è che si può anche non fare nulla, se il niente lo riempi con altre cose, rinunci momentaneamente. Io sono arrivata quasi alla sessualità, vista la fauna che c'è intorno, alla fine sono più le rotture di balle che la felicità di stare con qualcuno. Fa male a chiunque sentire questo lamento disperato ma sardonico, cinico delle donne in fuga. 800240024. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Io telefono perché vivo in questo momento esattamente la stessa situazione di una donna iscritta al fuga. Perché lei è un farlocco stanco? No, io sono il contrario, cioè io sono particolarmente attivo, però la mia compagna professionista. Mandrake, vabbè. Cioè il dato di fatto è questo. Cioè che diventa, è da parte femminile che diventa una routine, quasi una prassi da sbrigare, ma... Però Roberto, è un po' diversa la cosa, ora le spiego, per quello che posso aver capito. Lei è una compagna stanca che non ha voglia di far l'amore e lei deve, che accade in tutte le coppie a lungo termine, le signore... No, guardi, io con questa donna ci sto da 3 anni, abbiamo 50 anni tutti e due, però lei ritiene che la vita di coppia sia soprattutto andare a musei, ma fare tutte le donne viaggio, sono così, ma guardi... Ma l'aspetto sessuale è una cosa molto marginale. Le donne, una volta che hanno messo l'uomo in casa, sono favole. Una volta che hanno messo l'uomo in casa, quello diventa un aspetto secondo. Le nonne dicevano: devi farlo per far contento tuo marito. Purtroppo è così. Una volta ti vede come l'uomo fisso in casa. No, è in fuga, non attizzi più la tua donna, non è un problema. Ma non è, il fuga è diverso. Quindi cambio allora. Ma questi sono problemi tuoi, non lo so, cioè, da lei non avrai altro di quello che hai, questo è poco ma sicuro. Da qui ai prossimi 50 anni è così, questo, ma uno tante volte... Quindi potrei inventare lo slogan, basta patata, cos'è? Basta patata lessa, vabbè, come vuoi, certo, sì. Ognuno, è un altro problema però, sei fuori campo. Giusi, buongiorno, vediamo se lo riportiamo in carreggiata. Sì, buongiorno. È un altro problema, ha capito che non c'è niente a che fare, quello diceva, quello è semplicemente una donna che sente il debito coniugale come un peso e non lo vuol fare, ma... Allora, a me mi è capitato di... Allora, farlo col sacco cosa vuol dire? Che non ha voglia di far sesso? No, ma non è solo il sesso, non è solo... È più, le donne del fuga è più... È un uomo che non ha nulla da dire, nulla da dare, che sembra che abbia già tutto, sì, esce con te, ma il sesso è una cosa secondaria, può farlo, non farlo. Anche una donna, una volta che l'ha fatto, non è che sia il perno su cui poi si regge tutto. Uomini farlocchi, non so come spiegarlo. Sì. Allora, a me mi è capitato purtroppo ultimamente di incontrare... qualche uomo, non tantissimi, che però magari appunto sono passionali, bravi, tutto ciò che vuoi, anche teneri, e poi però scappa. scappano. L'idea di una storia, madonna, li terrorizza. Ma cosa intende per storia lei, però? Perché una, storia intende? Così, cosa intendo per? Per storia, andare a vivere insieme sotto lo stesso tetto. No, ma stiamo scherzando, ma come si fa a proporre di andare a vivere insieme quando ancora non ci si conosce bene? Intanto frequentiamoci, rivediamoci. Invece no, come percepiscono che casomai uno ha voglia di andare leggermente oltre, cacchio, e scappano. Ma qual è, qual è il limite massimo? Il limite massimo è vedersi uscire, aperitivo, cenetta, trombatina, fine, poi basta. Cioè, lei dice, ma non ci vediamo domani, andiamo a fare una passeggiata? No, dicono no. No, a me è capitato l'ultima persona che, così, che frequentavo, che mi riempiva di messaggi, poi, perché comunque non vogliono perdere, come dire, quel minimo di contatto. Ma quello sa perché come si chiama? Lo sa come si chiama questo? È la ripresina, uno deve avere sempre la ripresina pronta. Uno deve sapere che nel momento che si stanca di una persona, c'ha la ripresina, tiene calde 7-8 persone, così fanno, diciamo, gli uoni particolarmente attivi. Molla una, c'è un'altra, fa delle alternate, lui non si stanca mai e non si annoia mai. E certo, quella innamorata naturalmente ci mette il teschietto davanti. È triste uguale, è meglio approfondire con la solita, casomai. Per cui è triste uguale, insomma. Ma lo so, ma che vuole? Faccia anche lei così. Metta, vede, se va su WhatsApp, sono tutte le iconcine. Mette il teschietto davanti, il cetriolo, quello che vuole, c'è tutto, e decide poi in base a quello dove andare a riprendere. Purtroppo il mondo è così, ma il farlocco stanco è un altro problema ancora. Il farlocco stanco è l'uomo che non nemmeno quel livello che ha detto lei, non si spende nemmeno per una notte d'amore, è anche troppo, perlomeno anche la notte d'amore del farlocco stanco è qualcosa di farlocco, qualcosa ti alzi la mattina e non ti accorgi se hai bevuto un bicchiere d'acqua o non hai bevuto niente. Giusi, ha parlato Andrea. Buongiorno. Andrea, sì. Buongiorno, complimenti per la trasmissione e anche per quella del treno. Fa male molto a me questa trasmissione, però che devo fare? Faccio il mio dovere di informare. Bene. Ok, 42 anni, lavoro sempre in trasferta in Italia e all'estero e dopo varie esperienze passate sono pienamente d'accordo con le signore, meglio andare in bianco che stare con la farlocca stanca. Perché anche lei, invece lei la rivolta al contrario, cioè ci sono molte donne ugualmente farlocche stanche. Sì, al di là del sesso e al di là di altre cose, però poi dopo diventa, in effetti diventa solo una gran rottura di palle. Non lo so, io guardi, io ho soltanto amiche meravigliose, devo dire, amiche, probabilmente non vado mai a approfondire quello che lei già conosce, apparentemente provo pena per loro perché non riescono a trovare uomini. Dico, ma forse che oggi gli uomini non si accorgono, ci sono donne libere che non vorrebbero nulla, ma forse la trappola è proprio questa, che poi alla fine chiedono di essere sposate, di fare figli, l'impegno per la vita, qualcosa del genere può essere. Poi c'è anche un lato egoistico che ho visto che emerge, che non è solo dell'uomo, anche della donna, di non avere qualcuno che ti fa pressione per fare delle cose o mettere assieme degli interessi che magari sono diversi. Non è solo la sfera sessuale che... E soprattutto non hai le scocciature di avere qualcuno, appunto, che poi pretende di fare la famiglia felice o di prenderti i tuoi spazi. Queste cose qua. Io vedo che ho solleticato più il mondo maschile in una sorta di rivolta, piuttosto che il mondo femminile a confermarmi o smentirmi la teoria del farlocco stanco delle signore del fuga. Le italiane se la tirano da giovani, mi scrive un ascoltatore, e poi vogliono fare le giovani da vecchie. Per fortuna il mondo è grande. Attribuisce una sorta di caratteristica nostra, locale, il fatto che le signore da 40 anni si sentano improvvisamente delle liceali. Ma mi sembra una cosa meravigliosa a me, non c'è nulla di male. Buongiorno Gianluca, sono un uomo farlocco, quando non sono convinto della persona che conosco, in un primo tempo immaginavo più interessante, si scappa dalla noia, da aspettative di continue mascherate, da liberismo sessuale. A Nicolè, finalmente il maschio si è liberato dall'ossessione del sesso e la femmina non lo può più far leva su quello come merce di scambio, finalmente siamo liberati, anche questa è parità, Fabio, e questa è intelligente. Dice, il maschio si è liberato dall'ossessione del sesso e la femmina trova uomini che non pensano soltanto a quella cosa, pensano anche a altre cose, come una volta venivamo noi accusati, ragazzacci degli anni Ottanta, pensi solo a questo, c'è anche altro, andiamo a vedere musei, andiamo a fare passeggiate, andiamo a fare delle belle vacanze e tu invece vuoi fare solo questo. Ecco, oggi gli uomini sono questo, si è rovesciato il mondo. Renato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Il problema dal mio punto di vista non è che noi siamo dei farlocchi stanchi, io ho 55 anni, sono separato, vivo solo, mi faccio la mia vita, il problema è che ti fanno stancare. Ecco, lei diciamo è il target privilegiato, uomo libero, solo, già sposato, quindi diciamo abbassa tutta una serie di sospetti che sia gay, che abbia qualcosa che non funzioni. Assolutamente, è perfetto. No. Quindi, però è libero a casa sua, potrebbe essere un appetibile un partito. Target. E invece? E invece il problema è che ti fanno stancare, perché voglio dire, io sono stupito dalle donne che hanno chiamato fino ad ora, perché tutte dicono no, noi non chiediamo niente, non vogliamo niente, vogliamo solamente così divertirci, e invece alla fine tutte, come si dice a Milano, vogliono attaccare il cappello. Oh, esattamente alla fine, quello, cioè, questo è il punto della discussione. Uno sposato da 25 anni che si è separato così, probabilmente non ne ha voglia di ricominciare subito seriamente. Col piffero se ne mette un'altra donna per casa, questo è poco ma sicuro, può avere un grandissimo amore, una meravigliosa amica, una storia fantastica, ma non può pretendere una donna se rimette una donna in casa, mi sembra, a meno che sia masochista, o no? Assolutamente d'accordo su questo. Il problema è molto semplice, che sono spesso e volentieri sono loro che sono stanche. Proponi delle vacanze, proponi, piccolo esempio, weekend in moto. Ah no, in moto non ci vengo perché mi rovina i capelli. Certo. Oppure facciamoci un weekend, che ne so io, in barca. Ah, ma guarda, la barca mi disturba. E cosa propongono invece che propongono? Esattamente, ma non propongono assolutamente nulla, propongono la cena, la passeggiatina mano nella mano, come se fossimo due ragazzini di 22 anni. Sì, oggi le donne stanno sempre a mangiare, questo è vero, stanno sempre a mangiare, sempre a cena. La prima cosa che fa una donna mi porti a cena, chissà perché. Poi siamo un paese molto, molto ben nutrito. Beh, fermiamoci un attimo, riprendiamo fra un attimo quei farlocchi stanchi, visto che le signore del Fuga sono molto timide nell'esprimere. Melog, cronache meridiane. È meglio andare in bianco che darsi al farlocco stanco. Per esempio, abbiamo uno di questi che racconta senza pudore quello che gli fa la madre. Siccome appunto la formazione sessuale di questo giovinotto si è formata su questi siti, la madre una sera l'ha beccato. E quindi di soppiatto si è fatta dare l'acqua santa dal prete e gliel'ha battezzato, quindi ovviamente chiaramente mandandoglielo in fumo, cioè gli ha tirato una bacinella di acqua santa. Beh sì, abbiamo quindi questi personaggi che nonostante abbiano 30-40 anni non possono uscire di notte, perché la madre dice che non sta bene uscire di sera, soprattutto per i suoi figli, anche se sono maschi, e quindi minacce di suicidio se questi escono la sera con le donne a fare chissà cosa, per cui devono stare in casa. 800240024, c'è anche una sorta di sfasamento spazio-temporale. Ti hai sentito la rappresentante del Fuga, che ricordo il movimento Femmine Urbane Grandi Astensioniste, descrive un suo farlocco stanco. È un nativo digitale, quindi conosce tutto delle tecnologie emotive. La notte si mette su YouPorn a smaneggiarsi un pochino. La madre, che è tutta un'altra generazione, tutto un altro mondo, ma lo domina, entra e gli tira addosso la piletta dell'acqua santa. Ma non è che anche, diciamo, la facilità di essere reperibili abbassa il livello di rapina sensuale di un uomo? Non so, semplicemente sono uomini che danno il biglietto da visita. Tieni, questo è il mio biglietto da visita, chiamami, oppure mi dai il tuo contatto Facebook, ci sentiamo su WhatsApp. E poi, capito, la sera uno stravaccato sul divano manda 10 messaggini e ha risolto il suo problema. Oppure si trovano quelli in chat che addirittura fanno una pessima pubblicità di loro stessi. Per me è capitato che già a sentire le prime frasi che ti dicono hai già capito se è un rompiballe, se non ce la fa. Già ti vedi tutto il film di quel weekend che ti puoi fare con lui, perché è difficile anche adesso avere delle prospettive che vanno oltre un weekend. Però alcuni di questi non sfruttano nemmeno, perché parliamoci chiaramente, dopo qualche battuta c'è subito quello che ti chiede la foto, oppure ti manda la sua. Il problema qua, vedi anche quanto sono poco avvezze all'uso della fotocamera. A me sono capitati dei personaggi che mi hanno mandato delle foto del nudi, bisognava ingrandire, io non riuscivo a ingrandire al punto da riuscire a vedere che cosa c'era. Quindi ho detto scusami, ma tu pretenderai mica che adesso io esca con te? Caro farlocco stanco, devi renderti conto che è passata acqua sotto i ponti, non può più illudere nessuna donna che con il tuo gingillino da passeggio sei uno strozzapapere. Oggi la donna della Fuga conosce la funzione per ingrandire il JPEG e capisce qual è il tuo problema. Bianca. Sì, buongiorno. È del fuga lei? È del fuga? No, però sono contenta di sapere che esiste e mi scriverò subito. Io sono, concordo molto con la signora Nicoletta che ha telefonato poco fa, perché appunto il problema non è che vogliamo, io sono divorziata da tanto e quindi ho avuto sempre i figli con me, e quindi avendo figli questi scappano con le lettere ancora prima di poter prendere un aperitivo insieme, cioè il fatto sì, è pesantino, è un po' pesantino, però diciamo si ovvia, se uno ha una buona volontà prende anche il pacchetto se gli piace la donna. Però non è che dice se te non vuoi fare subito sesso, solo sesso, perché ti vuoi sposare, non è questo, perché io non voglio né sposarmi e né convivere all'istante, non mi interessa perché ormai sono indipendente, ho la mia casa, il mio lavoro. Cosa le manca? In una battuta, in una parola? No, proprio qualcosa di più, il condividere tutto, il condividere anche andare a fare la spesa, andare anche a un teatro. Anche ecco, l'uomo di queste cose non ne vuol sapere. Non ne vuol sapere, strano. Perché l'uomo oggi ha tanta scelta. Ma strano, sì, quello sì, che tanta scelta è vero, ma strano, io mi diverto un sacco ad accomodare gli utensili di casa, non lo so. Laura, buongiorno. Buongiorno, io sono appena stata scaricata da un farlocco stanco. Quanto dopo tempo 12 è stato? Anni di 12 anni di convivenza. Beh, masochista, se non se n'era accorta nei primi 12 mesi. Sì, lo dice anche il mio psicanalista, perché in questo frattempo ovviamente sono andata in analisi, perché mi sono messa in discussione. Beh, era meglio che andava nei Caraibi, scusi, avrebbe risparmiato o risolto prima. Vabbè. Lo so, sono d'accordo, però il farlocco stanco è una persona che non ha più nulla da dirti. Sì, che però dopo 12 anni, mai... non mi incanti, scusi, dopo 12 anni è complice lei di ogni farlocco stanco, perché assolutamente se per 12 anni c'è stata assieme avrà trovato qualcosa in quel farlocco stanco, se no non ci stava. Forse in quel momento se mi serviva un porto stanco dove sì, ma quel momento, 12 anni non è momento, è un terzo della vita attiva, non lo so, boh. C'è la pigrizia, forse c'è sicuramente, c'è anche la pigrizia, la paura di... Ma di adesso cosa imputa quest'uomo che potrebbe dirle, c'hai avuto 12 anni per capire com'ero, ma che vuoi da me? Non è, uno quando sta insieme 3 mesi già capisce come è una persona, un anno lo capisce, 12 anni non ci possono essere più sorprese. Forse la stanchezza del farlocco si palesa nel tempo. Se è staccato di lei, ma forse è staccato di lei, non è un farlocco stanco. No, mi sono stancata io di lui. Quindi, e adesso dove e adesso lei si trova nella condizione di iscriversi al fuga, perché adesso si guarderà intorno con le sue ferite lancinanti e dolorose, con lo psicanalista che figura la porterà avanti per altri 10 anni, se no figuriamoci, è il suo pane. Quindi suo pane, lei dovrà andare a cercare uomini, li vedrà tutti farlocchi stanchi e non so che no, dirle. No, non voglio cercare uomini, quindi, i farlocchi stanchi non mi interessano. Quindi, perché non mi interessa più niente. È meglio andare in bianco, la condivisione. È meglio andare in bianco. Assolutamente. Lo dice, è meglio andare in bianco che darsi al farlocco stanco, me lo dice? Ma come dice, cioè, assolutamente sì, meglio andare in bianco. Meglio andare in bianco che darsi avere un farlocco stanco. Perfetto. Ma per carità. Abbiamo trovato un investito, una signora del fuga, quindi questo movimento di femmine che ci eravamo inventati noi, adesso esiste veramente. È meglio andare in bianco che darsi al farlocco stanco. Le 10 regole d'oro per potersi iscrivere al FUGA, Femmine Urbane Grandi Astensioniste. 1. Requisito fondamentale è lo status di single, da non confondersi con quello di zitella. La FUGA è una ragazza, donna, bella o piacente, carismatica, indipendente, con passioni forti che la pagano sia lavorativamente che intellettualmente. Non è in cerca di un compagno, perché non si sente sola, anzi, la solitudine è per lei una forma di libertà irrinunciabile. Sceglie, non è scelta. Trova solo molto raramente un maschio consono, ma non lo cerca. Se non lo trova, non si straccia le vesti. Siete anche voi convinte di poter essere una fuga? Vuoi essere una fuga? Oggi è il momento giusto, è la maniera per determinare, e vediamo lo spazio totale, questa sorta di nuova autonomia. Guardate, è un passo avanti rispetto a tutte le precedenti istanze legate al femminismo, alla determinazione dei diritti delle donne. Questa volta nulla a che fare con il più bieco separatismo, con l'antagonismo spiccato. La fuga è una donna tranquilla, serena, ormai ha perfettamente capito che non c'è più guerra, non c'è più battaglia, non c'è più niente da dire, niente da fare se non essere una fuga. 800240024, Sandro. Buongiorno. Buongiorno. No, io volevo intervenire solo dicendo che siccome stiamo diventando tutti androidi, non ci sono più valori, non ci sono più sentimenti, le persone ormai usano no, penso di no, perché le persone hanno paura, non sanno più relazionarsi, e quindi chiaramente questi sono i risultati di quello che sta succedendo. No, ma sono i matrimoni che calano, non è che calano le relazioni, calano i matrimoni, la gente si vuole più sposare, non è che non si vuole relazionare, non vuol dire più prendo un impegno per la vita. Questo può succedere, io mi sono sposato a 52 anni, quindi ci ha pensato, prima, quindi... è ponderata come scelta. Sì, bisogna trovare la persona giusta e credo anche sentirsi più maturi, quindi chiaramente io non la vedo così, io sono un vecchio schettaro degli anni 70, ancora penso e credo che ci siano ancora dei valori, non mi piace il computer, non mi piace Facebook, non mi piacciono queste relazioni, però purtroppo ormai la gente... Vabbè, la colpa, ho capito, ho messo l'elenco delle colpe, la colpa è della tecnologia, la tecnologia ha liberato e affrancato gli esseri umani dal gioco della relazione univoca, l'ha resi dei multipli amatori o multipli frequentatori e quindi, ahimè, non si sposano più. 800 24 00 24, torniamo al punto, cosa occorre essere per diventare donne del fuga, quindi donne che hanno consapevolezza che questa fuga dal matrimonio è data proprio da una sorta di rigetto rispetto al tradizionale schema in cui c'è un uomo e una donna che si incontrano, che si amano, decidono di sposarsi e stanno insieme tutta la vita. 2. Possono iscriversi tutte le donne, purché siano libere da impegni e dal giogo di matrimoni, fidanzamenti e convivenze. Si accettano quindi anche donne ex accoppiate, sinceramente pentite, desiderose di impegnarsi egoisticamente nella propria vita, invece di pensare ancora alla metà della mela, e quindi non bisognose di appoggiarsi al primo farlocco che passa. 3. Una vera fuga non si lamenta per un uomo che non vuole impegnarsi, ma teme di incappare in un farlocco stanco. No al compagno per la vita, sì a molteplici percorsi sensoriali ideali per ogni diversa stagione della vita. Eh sì, ma queste donne della fuga vogliono soltanto divertirsi. Ce l'ho un termine per definirle, mi scrive un ascoltatore. Monica Lanza, buongiorno. Buongiorno. Monica Lanza è la leader della fuga, femmine urbane, grandi astensioniste, che oggi ha anche pubblicato una pagina Facebook che è anche abbastanza inquietante, perché fa vedere una signora del fuga che stermina sul nascere un possibile farlocco stanco, quindi passa con un trattorino sopra un povero bambino innocente. Allora, Monica Lanza, come vi difendete da questa accusa fatta dagli uomini, che in realtà siete donne di poco spessore etico e morale, volete soltanto divertirvi con tanti uomini? Beh, intanto che male c'è a volersi divertire? E poi quella è la classica scusa del farlocco stanco, cioè è un po' la volpe che non arriva all'uva e quindi qualche giustificazione deve darla. Il suo punto di vista rispetto alla tipologia di maschio, ha telefonato prima, non ci sono più valori, colpa del computer, come lo classifica? È un vecchio farlocco. Infatti, quindi sì, è già eliminato da solo. Più giovane di me, comunque, abbia rispetto almeno. Sì, ma è vecchio nella sua mentalità, detesta il computer, il progresso, si definisce vecchio rocchettaro degli anni 70, va bene, comunque compatisco quella signora che se l'è preso, ecco. Come dire, nella mia generazione, un garibaldino fatto rocchettaro negli anni 70, mio nonno diceva, mi ricordo le camicie rosse che sfilavano, ecco, è la stessa cosa. Sentiamo se c'è qualche potenziale militante del fuga. Greta, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti, grazie per avermi fatto intervenire e complimenti per la trasmissione. Senta, lei ha le caratteristiche per essere una fuga, secondo lei? No, probabilmente, come dice la signora, io sono una giovane vecchia, perché ho 36 anni e sono sposata. Ma avercene, scusa, di 36 anni, adesso con rispetto no, parlando. No, forse sono vecchia nella mentalità. Perché è vecchia? Perché lei se è unita con un farlocco stanco se lo tiene per tutta la vita? No, io ho sempre dato una lettura diversa a questa diminuzione dei matrimoni, lavorando con parecchie donne, tra l'altro, molte non sposate, mi sono accorta che ad esempio secondo me è molto un fatto economico. perché io ad esempio sono sposata, ho 3 figli e percepisco 140 euro al mese di assegni familiari. La mia collega di fianco a me, non sposata, con un figlio, ne percepisce 134, quindi lei capisce che prendiamo la stessa cifra, ma io ho il triplo dei figli. Questi secondo me si sposano tutti quando i figli hanno 18 anni per la reversibilità della pensione. Ah, quindi c'è un motivo economico? Beh, non è indifferente. Ma vuole mettere, diciamo, è un'attività logorante il matrimonio. Non so se convenga andare a lavorare nelle miniere piuttosto che sposarsi. Effettivamente, non è proprio semplice, bisogna impegnarsi ovviamente. Però anche stare insieme senza un vincolo, diciamo, scritto, senza il matrimonio, che sia civile o religioso, se uno è credente, comunque si può stare insieme tutta la vita senza sposarsi. Quindi lei dice ci vuole una forma di contrattualità di questo periodo in cui uno si concede a un altro essere umano, che ne sancisca i doveri, i diritti e di anche un giusto risarcimento, senza dover poi scannarsi con gli avvocati quando la cosa finisce. Per chi ama le tradizioni e per chi preferisce il cambiamento, per chi vuole tenere la mente sempre sveglia e per chi non rinuncia alle sue passioni, per chi vuole restare sempre aggiornato anche sotto le feste, le nostre voci, le notizie, gli approfondimenti e le grandi storie sono con te anche in vacanza. Tanti auguri. Tanti auguri. Tanti auguri da Radio 24. Melog. Cronache meridiane. Futuro insieme, solitamente come badanti di qualche farlocco di per sé già poco autosufficiente in gioventù, noi donne fuga preferiamo far cigolare milioni di molle del letto con la giusta compagnia. Accontentarsi di prestazioni sessuali scadenti è peggio di una fantasiosa astinenza, è la morte di e in ogni senso. 5. Col farlocco nessuna pietà. Se per sbaglio si dovesse incappare in uno di questi, mai concedere una seconda possibilità. 800240024, vi ricordo che da questi giorni si possono anche mandare gli sms attraverso WhatsApp. Io davanti a me ho la videata di WhatsApp, così vedo anche in faccia le persone che mi scrivono, oltre a vedere il numero di telefono e vedere un sacco di altre loro cose personali. Il numero degli sms, che è possibile anche contattarci attraverso WhatsApp con lo stesso numero, è 349-238-6666. Così vedo anche le vostre faccine quando mi andate a quel paese, mi diverto ancora di più. Stiamo questa mattina cercando di analizzare la tipologia della donna del fuga. La donna del fuga è colei che è iscritta al movimento Femmine Urbane Grandi Astensioniste, di cui la leader è oggi con noi collegata. Monica Lanza, mi sembra che il pubblico maschile reagisca soltanto su un bieco fatto economico, come se la gente si sposi soltanto per gli assegni familiari, per i contributi, per le pensioncine e via dicendo. È una maniera di eludere la propria farloccaggine da parte del pubblico maschile, secondo lei? No, ma il farlocco peggiore è proprio quello attaccato ai soldi, quello che è un micragnoso, cioè di solito cerca qualcuna per farsi mantenere, tra l'altro. È facilissimo incappare in questi soggetti, qualsiasi donna glielo può dire, oggi sono loro che cercano di farsi mantenere da noi. Poi quello che volevo dire è che oggi si assiste a un cambiamento, cioè non c'è solo la donna che è interessata a fare shopping, ad avere qualcuno che le paga questo shopping, o che è la classica figlia della sgrana rosari da chiesa per cui cerca una famiglia di fare dei figli. Ci sono anche donne che sono interessate ad altre cose, che hanno molti interessi personali, soprattutto hanno un loro lavoro che le appaga, sono contente, quindi perché nel tempo libero bisogna rinchiudersi in casa con un farlocco che giustamente non può dare nessun divertimento sotto e sopra le lenzuola? Perché bisogna annichilirsi in questo modo? Allora è giusto anche stare da sole, divertirsi, allargare le cerchie delle proprie amicizie, ma perché bisogna per forza trovarsi qualcuno? Basta guardare come sono male accoppiate certe coppie, dove la donna magari è anche bella, intelligente, e l'uomo ha sempre qualcosa di meno, cioè c'è forse un'involuzione dell'uomo. No, è verissimo, è verissimo. Sono sempre uomini non all'altezza delle donne che li accompagnano, raramente c'è il contrario. Dora, buongiorno. Dora. Salve, buongiorno. Io intanto sono contentissima di essere venuta a conoscenza oggi del Fuga, perché mi sentivo molto fuga dentro, ma non sapevo che ci fossero, quindi ci fosse anche un'aggregazione così importante. Lei è una femmina urbana, grande astensionista, si trova in linea con diciamo quello che abbiamo finora elencato come caratteristica. Ma senza saperlo, sì, mi ritrovo perfettamente. Io ho 52 anni, mi sono sposata a 42 anni assolutamente per amore. Onestamente non riesco, in pochi minuti non sono riuscita a capire se mio ex marito è un farlocco o meno. Comunque insomma, non ci ho visto mai assolutamente nessuna mala fede, semplicemente le cose poi ci hanno portato un pochino alla situazione in cui da parte mia molti interessi, insomma, una vita lavorativa, professionale molto Come lo ha smaltito il marito? Ci siamo separati, vabbè, anche perché poi insomma, noi abbiamo un bambino autistico, quindi lei sa bene quanto poi questo. Sì, non è diciamo il massimo da gestire quando si è separati, diciamo la verità. Però. No, però quanto poi ponga delle difficoltà anche alla coppia, no? Così sì. Avere una difficoltà di questo tipo in casa. E di nuovo la mia esigenza era quella di avere una flessibilità anche di gestione, cosa che nel matrimonio tradizionalmente inteso, perché poi ecco, concordo sul fatto che le donne, quantomeno insomma quelle che hanno avuto un'evoluzione molto importante, negli uomini il matrimonio è rimasto proprio nel DNA connotato ad una staticità e veramente grazie, scusi, inteso tradizionalmente è una figata, c'è una schiava in casa che deve sta zitta, che lava, pulisce, stira e in più la puoi usare diciamo per il tuo diletto finché ancora ti diletta, e poi tanto ti sta lì, tanto non va da nessuna parte, via dicendo. Grazie, tutti metterebbero la firma su questo. 6. Noi diciamo no alla passeggiatina domenicale più gelatino e discorsi da bar, che sono l'anticamera della morte intellettuale e passionale. Sì, invece, a chi è capace di condividere e scatenare emozioni. No al farlocco stanco da passeggiata domenicale. 7. La fuga doc non ha paura di una lasciata, ma del tempo che potrebbe perdere con un farlocco. Non è di quelle che non mollano mai la presa. La fuga lascia un uomo senza voltarsi indietro. 8. Segno distintivo di una fuga doc è di intuire al primo sguardo se ha davanti un farlocco o un papabile amante. Nel caso di farlocco da chat, poche battute bastano per individuarlo e neutralizzarlo. 800240024, parliamo del Fuga, del movimento delle femmine urbane grandi astensioniste, che sono diciamo il catalizzatore di un'ideologia, di un modo di pensare, di porsi di fronte alla vita, di donne emancipate, libere, che vogliono prendere un passo di distanza da quelli che sono i modelli tradizionali di donna e anche di atteggiamento nei confronti della coppia, mentre gran parte delle loro coetanee, ricordo che le Fuga vanno da un'età media che può andare dai 30 ai 60 anni, e non ambiscono avere questo compagno per la vita, non cercano l'uomo da sposare, l'uomo da averci vicino, l'uomo che si prende responsabilità, e hanno identificato nel farlocco stanco il comune denominatore della popolazione maschile con cui si incontrano. Devo dire che è molto divertente guardare su WhatsApp i vostri messaggi, e presto ne darò anche ragione. Nicoletti, secondo me non ci si sposa anche perché è cambiato il costume. No, davvero, oggi si cambia più velocemente profilo Facebook di quanto velocemente si cambiano le mutande. E allora qual è il problema? Evidentemente lei ha una scarsa igiene della propria biancheria intima. Fabio, buongiorno. Buongiorno a lei. Il farlocco di per sé credo che sia un animale che vive tutti i giorni in tutti i posti d'Italia, del mondo. È altresì vero però, a differenza di quello che diceva la signora, che il farlocco secondo me non è una cosa che in cui si nasce. Secondo me si diventa secondo una condizione che contribuisce a farti diventare. Non a caso ci sono persone che nascono in un certo modo, creano una certa situazione con tutte le buone diciamo con tutti i buoni intenti, e poi invece cambiano perché magari anche la controparte divento un pochino più rigida rispetto a quello, o si rivela diversa da quella che era prima. Diciamo che normalmente nella coppia diventa sempre meno rigida la controparte, e quello è un po' il problema. Vediamo un po' cosa dirà Monica Lanza. Luca, buongiorno, sentiamo, visto che chiamano solo uomini, io do atto che le donne non sono interessanti alla fuga, e oggi evidentemente ancora o nicchiano, guardano, osservano, ma non hanno l'idea che in realtà occorra emanciparsi da un ruolo di eterne ricercatrici del compagno per la vita. Luca, buongiorno. Buongiorno, secondo me, io facevo una riflessione, secondo me anche questi movimenti che stanno nascendo partono da una crisi di identità che legittimamente la donna ha oggi, e cioè dal fatto che la donna deve coniugare tante cose, e infatti le ammiro tantissimo per questo, perché riescono a fare cose meglio e più di noi uomini, e questo coniugare tante cose le comporta comporta in una ricerca spasmodica di qualcosa che nemmeno loro sanno. Cioè nemmeno loro sanno cosa vogliono, a mio modo di vedere. Ma che io glielo diciamo noi quindi, cosa devono volere, non so, per capire. Esatto, e quindi quando fanno, però alla fine si finisce per una generalizzazione, perché poi questo movimento comporta inevitabilmente una generalizzazione che secondo me né da un lato né dall'altro va fatto. Il movimento assoluto non esiste, esatto. Si chiama dittatura, no. È velletario, sì, hanno un loro punto di vista. Però guarda, mi sta scrivendo un ascoltatore, me l'ha mandato 6 volte su WhatsApp. Nicoletti, smetti di fare lo Zerbino. A caso di una legge anacronistica nelle separazioni, l'uomo ha torto a prescindere. Il sesso maschile, sposarsi equivale a firmare una cambiale in bianco, sempre esigibile alla moglie, non appena si stufa. Vero, questo è vero, ne abbiamo parlato più volte, ma è un altro tipo di problema. Usciamo dall'aspetto giuridico, entriamo in un aspetto più legato alla relazione. Giancarlo. Sì, secondo me dovremmo noi uomini fare un'associazione simile contro le donne farlocche. Ma già esiste, si chiama club del calcetto serale. Cioè quelli vanno a giocare a calcetto la sera, hanno già risolto. Perché? No, perché allora sono uguali quelle delle donne? No, non sono. Non mai, io non faccio. Se la mette su questo paragone, allora anche cioè l'offesa perché ho detto club del calcetto, sì, è una delle vie di fuga più consuete. Gli uomini dicono andiamo a giocare a calcetto, si spaccano gli stinchi e i menischi, ma almeno stanno fuori casa, non potendo fare. Cerchiamo le donne farlocche? E ce l'abbiamo con le donne farlocche. Ma io non ce l'ho con nessuno. No, e poi non ho nessuna questo. No, ma il mio intervento voleva dire che secondo me queste donne della fuga sono donne insicure, che non ho capito bene che cosa che uomo cercano, e allora denigrano l'uomo farlocco. Ma forse è il contrario. Cercano un uomo che le faccia divertire, secondo me le faccia stare allegre. Non c'è? Non esiste? Resti in linea. Monica Lanza, le do immediatamente un antagonista difficile da gestire. Risponda a questo signore che vuol sapere cosa cercate voi del fuga. Lui è molto sicuro, dice che è un problema vostro, in realtà ci sono gli uomini. Non cerchiamo senz'altro qualcuno che ci venga ad ammorbare con della mediocrità, ecco, l'incapacità sostanzialmente non vogliamo. Non vogliono le nostre scritte, che peraltro stanno contattando il centralino, ma continuano a dirmi che è occupato, quindi stanno chiamando in realtà. Stanno chiamando al numero verde 800240024. Vediamo, ecco, sì. Daniela, da me ho beccato. Occupato dagli uomini. Ecco, stanno chiamando in tanti, sai, c'è un limite umano nelle persone che rispondono al telefono. Daniela, l'abbiamo presa una. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo commentare, diciamo, le affermazioni della signora, nel senso che come ex, tra virgolette, combattente del femminismo, mi colpisce molto questo atteggiamento quasi di disprezzo per quelle donne che non pensano come loro, nel senso che le vengono considerate quasi inferiori, e le considero come un fallimento proprio invece del movimento femminista. Però oggi è il reducismo, come chiama l'ex rocchettaro, adesso l'ex femminista, siete icone che appartengono a un passato. Ma semplicemente mi sembra che è un atteggiamento eccessivamente settario, anche perché tutto sommato delega probabilmente a queste sfigate, tra virgolette, il compito di, tra virgolette, continuare la società, cioè quelle che stanno in casa, che avranno i figli, sono intelligenti e le altre sono delle cretine. Le altre facciano come vogliono, ma questo vale anche per il club degli scacchi o club del ricamo con il tombolo. Uno dice noi facciamo questo e le altre facciano quello che vogliono, però vedo che abbiamo suscitato dibattito anche nel genere femminile, questo ci fa divertire e possiamo dire viva il fuga ancora una volta.